sfida i luoghi comuni di Riccardo Poli, Alessandro Longoni e Beppe Salmetti. Gus guarda Ben. Incredibile. Silenzio. Gus scuote la testa ed esce. Ben si sdraia e ricomincia a leggere. Dalla quinta si sente tirare di nuovo lo sciacquone che non funziona. Ben fa un fischio per sottolineare un'altra notizia sul giornale. Gus rientra. Volevo chiederti una cosa. Ben. Che fai lì fuori? Gus. Beh, stavo solo... Ben, e il tè? Ora lo faccio, risponde Gus. Ben, e dai, fal... Sì, adesso... però che cazzo, ragazzi, che cazzo, ma cos'è? Ragazzi, ho capito, avevo cioè, un po' di tosse... Ho capito, ma cioè, uno cerca di... Cioè, ma stiamo bello, interpretando Harold Pinter, premio Pinter. Nobel, il tè a pranzi, e voi... Sembrate capito, la vecchia che c'è in platea, in prima fila, che non si capisce come mai, è sempre una vecchia in prima... Continua, vai! Era bello, eh? Bello sto spettacolo, sì, madonna, adesso... Madonna. Risponde così. Ah, aspetta, devo spegnere la suoneria, non mi ricordavo. Anch'io, ma vero. Ma chissà se i preti hanno lo stesso problema. Dove? In chiesa? Vabbè, dici? Sì. A un certo punto sei lì sull'omelia, no? Sì. E vedi, sono molto vicini ai preti. Stranamente. Oggi cioè, siamo vicini ai sei preti. Sei lì che fai l'omelia, cioè provi a, no? Un po' a, cioè, a creare. A, non lo so, a far che cosa, creare un po' di empatia. A creare un'atmosfera con il silenzio, no? Esatto. E partono i colpi di tosse. Un momento catartico, no? In questo. Anche pubblico, anche collettivo, a un certo punto senti un rumore non previsto. Esatto, che rompe questa magia, perché oggi, ragazzi, parliamo di silenzio. Parliamo di silenzio. No, aspetta. Di silenzio parliamo. Bellissimo. Esatto, perché allora in radio il silenzio è proibito sostanzialmente. Siamo abituati alle radio di flusso, alle radio quelle tu che fanno pezzi da due minuti e poi parte la musica e poi c'è il jingle. Tra l'altro c'è un allarme in radio se esatto. C'è silenzio. Esatto, infatti secondo me è partito. L'abbiamo fatto scattare. Probabile. No, probabile. Non è partito. Ci sono tanti luoghi comuni sul silenzio. Quello che tratteremo oggi è che il silenzio è d'oro. Però si dice anche per esempio che un silenzio vale più di mille parole. Un silenzio non si nega a nessuno. No, questo no. Beh, no. Per questo non c'entra proprio una mazza, non so come dire. E poi anche citazioni poetiche, un bel tacere non fu mai scritto, che insomma. Ecco, l'abbiamo accennato all'inizio con i teatri, poi Beppe ha tirato in ballo le chiese. Tu hai ancora caramella in bocca, vero? Sì, è buona, tra l'altro, quindi io me la gusto. Ecco, silenzio dove? Quali altri luoghi necessitano di silenzio? Beh, per esempio, io all'università, quando andavo a studiare in biblioteca, e nello specifico nell'emeroteca, che è quella delle riviste, era il luogo più silenzioso, cadeva una penna. Ti guardavano e diceva: vabbè, ragazzi, mi è caduta una penna. Noi staremo studiando. Sì, ho capito, ma anche molto meno. Oppure anche negli ospedali, per esempio, no? Dove c'è un luogo di riposo, Esatto. E di convalescenza. No, o anche il treno mi è venuto in mente. Attenzione. Sì, è vero. Molti si lamentano perché in treno ci sono le chiamate, no? Ad alta voce e sono fastidiosissime. Sì. Allora, o ti metti delle cuffie e ti metti. Milano-Napoli, ragazzi. Ma no, sto scendendo. No, adesso guarda, facciamo tutto. No, Riccardo, adesso il business plan luoghi ce comuni, l'abbiamo. Luoghi comuni. Milano-Napoli, non ho detto in che direzione. Riccardo, guarda. Io facevo il milanese, infatti. Che fa il business plan mentre scende a Napoli. Dai, a Napoli, ragazzi. Mi raccomando, salviamo un attimo, non vogliamo essere menati. Anche no, per andare a Chiasso ti sì, ritrovi sì, il caffone. Chiasso, giustamente. Omen omen. Mamma mia, hai fatto sta battuta? Sì, io voglio farne un'altra così. Ciao Andrea. Io faccio sentire il suono delle ossa che ti si rompono nel naso. Mamma mia, io allora non ce la faccio fare la puntata come adesso. Si fa? Dopo questa no, io non ce la faccio. Me ne vado. Io invece allora, il silenzio lo ricollego a un periodo, a un momento della giornata. Perché quando ero piccolo mi diceva sempre mia mamma: mi raccomando, gioca a pallone, ma non dalle 14 alle 16. Ah, per vero. Cui per me il silenzio è anche legato un momento. Un momento, esattamente a quel momento lì. Ad esempio, quando altro bisogna stare zitti? Mentre gli altri dormono, probabilmente. Direi sempre. Ovunque. Come? Cioè, secondo me più si sta zitti in questo paese, meglio è. Comunque, ragazzi, la verità e la vera verità è che il silenzio non esiste. Colore ore che ho preso ammazzate con Conor McGregor Alvarez. Uno squillo ossessivo, come un pugno su Caxon, primo pensiero al mattino, l'ultimo prima di buttarmi giù dal terrazzo. Fischia l'orecchio in furia la cufene, nella testa vuvuzela mica l'ukulele. La mia resistenza è quella Zulu cede, se arriva all'arsen te lo devi tenere. Allora, siccome per parlare di silenzio, chi conduce in radio è il meno titolato a farlo, visto che siamo ossessionati dal silenzio, abbiamo un ospite quest'oggi, che è Chiara Luzzana. Ciao Chiara, buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao ragazzi. Allora, tu sei un'artista sonora, una compositrice, ma soprattutto una sound designer. Ebbene sì. Allora, il silenzio esiste? Pensavo esistesse e quindi pensavo fosse un qualcosa dal quale fuggire all'inizio. E in realtà poi ho scoperto che il silenzio non esiste. E l'ho scoperto quando ero piccola e quindi ne avevo terribilmente paura quando i miei genitori si sono separati e quel silenzio della casa diventava davvero ingombrante. E poi, decidendo di guardarlo in faccia, ho scoperto che in realtà questo silenzio così importante non esisteva, perché c'era sempre una piccola frequenza che mi accompagnava durante le giornate ed era la frequenza dell'elettricità, ovvero 50 degli, Hz. Degli oggetti che noi, con cui noi ci circondiamo, ma non soltanto, delle strutture che sono ecco presenti cos'era. Nella città. Tu eri lì un certo punto pomeriggio e fai, toh! E io che pensavo che ecco cos'era. Esatto, in realtà ero lì disperata nella mia solitudine, ho detto invece no, c'è il frigorifero che può diventare uno strumento musicale, quindi perché non utilizzarlo, no? Per esempio, che è un ronzio. Che è un ronzio. Tra l'altro, quando salta la luce te ne accorgi, perché anche di giorno senti che c'è un calo di qualcosa. Esatto. Manca qualcosa. Manca la tensione, nel vero senso del termine. No, no, è vero, tuo padre è elettricista. Sì, tra l'altro mio papà è elettricista, quindi sì, ci e sta. Potrebbe diventare anche un musicista, chiaramente. Potrebbe, lo capiremo esattamente in questa puntata, perché esattamente, Chiara, tu che lavoro fai? Spiegaci il tuo lavoro, perché immagino che non sia semplicissimo che da raccontare. È in parte la domanda che mi fa tuttora mia madre. Esatto. Come convinci i parenti, poi esatto, la domanda. Ma pure Beppe comunque, cioè, capiamo, che lavoro fai? Capita a tutti. Che lavoro faccio? Creo del suono. Facciamo la riduciamo così, creo il suono per tutto ciò che risulta inanimato, privo di voce, e quindi, che ne so, questa sedia, questo tavolo può avere una propria anima sonora, e il mio compito è quello di rimanere in ascolto e scoprirla. Noi abbiamo visto dei tuoi video su YouTube, Chiara Luzzana, potete googolare, cercare, troverete un sacco, e infatti fai questo, cioè tu prendi l'oggetto, lo osservi e cerchi di capire quali tipi di vibrazioni può produrre. Esattamente. Ed è incredibile, perché abbiamo visto degli oggetti risuonare in una maniera che noi non ci saremmo mai immaginati. Mai immaginati, però c'è anche da dire che tu inizi come musicista, cioè sì. Innanzitutto tu parti con una grande passione per la musica, hai anche studiato tre strumenti. Tre strumenti, sì, pianoforte, chitarra e clarinetto. Poi ti sei data al rap, se non sbaglio. Quindi giusto? Questa cosa pensavo rimanesse nascosta, invece no. Se tu l'hai detta anche solo a un giornalista per esatto. Sbaglio un pomeriggio, poi arriva. Con voi tre pazzi era sicura che questa venisse cosa uscisse proprio. Non ti chiederemo di rappare, anche se il beatbox. Vabbè ragazzi, comunque ecco, di questo vado molto fiera, per le mie certo. Gare di freestyle vinte. Quindi, ma questo, veramente? È certo, c'è un passato glorioso. Bello importante da MC. Di Rap Clash, di sì. Rap Wars, eccetera. Ebbene sì. No, vabbè, è anche un merito essere un ex rapper, poi DJ, insomma la musica. La poi musica. A un certo punto ti sei accorta che la musica non era sufficiente. Più che altro o le note, esatto, quelle della musica classica, quello spartito, le righe dello spartito in realtà mi bloccavano la creatività. Quindi vedevo un po' quelle righe, quel pentagramma come una prigionia. E ho deciso di romperle quelle righe. Ma è vero che l'udito è il senso che sviluppiamo già quando siamo nella pancia delle nostre mamme? Sì. Ed è il primo senso che sviluppiamo? Assolutamente il primo. E in molti non lo sanno, ma intorno alla quinta settimana di gestazione noi sviluppiamo la catena degli ossicini, l'orecchio interno, il timpano, proprio perché il feto deve essere pronto a ciò che lo aspetterà nella vita una volta partorito. Cioè sentire una serie di cazzate infinite. Esatto. Deve essere mondo, pronto a tutte quelle il nostro programma che... e tutto. Sì, no? Mancano dei filtri, ecco, andrebbe fatto un filtro per le perché orecchie. La cosa bella è che se tu chiudi gli occhi puoi eliminare l'immagine, ma tu non riuscirai mai, neanche con i tappi per l'orecchia sostanzialmente, a eliminare il suono. Quindi è una cosa pervasiva, quello che ti sveglia di notte ad esempio è un suono, è esatto. Difficilmente un'immagine, anzi quasi mai un'immagine. Tornando al discorso di prima, tu fai risuonare gli oggetti, molti brand si sono accorti della tua capacità, ne ricordo alcuni tipo Swatch, Alessi e molti altri. Ce n'è uno in particolare che a noi ha colpito, ovvero la Nivea, e ascoltiamo quello che tu sei riuscito a creare e poi spieghiamo con cosa. Volentieri. Chiara, cosa stiamo sentendo? Stiamo sentendo quello che è il suono della pelle, il suono della pelle di tutti noi. Per Nivea ho creato questa installazione audio, la farò molto breve. Erano 5 container all'interno dei quali ogni visitatrice o visitatore poteva entrare, registrare in autonomia il suono della propria pelle con alcuni microfoni particolari che avevo costruito, e io mi trovavo nell'ultima stanza a remixare e comporre una colonna sonora in real time della loro pelle. Quindi la gente arrivava in fondo e sentiva il suono del proprio corpo. Esatto, il suono del proprio corpo attraverso quest'organo, che è poi la pelle, che è il primo organo che noi utilizziamo per percepire le vibrazioni. Quindi innanzitutto la musica viene percepita dalla nostra pelle. Come fosse un tamburo sostanzialmente. Bravissimo. Cioè, concettualmente la pelle del tecnica. Tamburo è esattamente. Ma quindi una pelle più grassa mi suona meglio di una pelle più secca? Bravissimo. Ragazzi, cioè? Io qui trovo no, delle io ho persone tirato a caso, in esatto, sì, Beppe è un ignorante. Ho pensato alla crema, ho detto, la crema, che bella pelle secca che ho oggi. Spiegaci tecnicamente com'è questa tecnicamente cosa. Una pelle idratata suona in modo più morbido, con frequenze più basse. E quindi troviamo, per chi non è esperto di frequenze basse, troviamo un suono più caldo. Invece una pelle disidratata, quindi non curata, ha una sorta di acustica più secca. Quindi frequenze alte ed è pari ad una percezione all'orecchio più quasi più fastidiosa. Ecco, tornando al tema della nostra puntata, il silenzio è d'oro. Tu lo cerchi poi il silenzio nella tua composizione, e come lo cerchi? Il silenzio in realtà, dopo averlo fuggito, l'ho ricercato, proprio perché nelle composizioni il silenzio è uno degli strumenti più importanti. Aiuta a dare respiro, aiuta a fermarsi, a riflettere. Quindi anche a dare ritmo, perché tu di fatto prendi i rumori e li fai diventare musica. Esatto. E la musica vuol dire tempo e quindi anche pausa. Esatto. E quindi l'utilizzo del silenzio. Tra l'altro, infatti, mi ricollego a questa cosa giustissima che hai detto per citare un grandissimo che è John Cage, che del silenzio aveva fatto una sua bella composizione. Il brano 4:33, giusto? Esatto. Cioè, un pianista, spieghiamo per chi non lo sa, sì, è in realtà il performer che si siede davanti a un pianoforte, alza, insomma, non so come si chiami, il coperchio dei tasti, si mette lì davanti, sta per, insomma, apre lo spartito, ta ta ta, e poi fa 4:33 di silenzio, nulla, guardando il timer che scorre, poi finito, chiude. Applausi. Chiaro, bonifico perché sai, l'installazione è un artista, chiaro, bisogna chiaro pagarlo, e cena, poi metti a casa. Cena, esatto. Grand Hotel, brindisi, perché io sono sempre poi sul finale, brindisi, brindiamo tutti certo, insieme. Si beve certo, sempre, quello certo, sì. Allora, abbiamo pensato a un gioco per te. Perfetto. Abbiamo provato a pensare. Facciamo sempre con tutti i nostri ospiti, sì, per carità. Abbiamo pensato a un oggetto che ci rappresentasse ognuno di noi e volevamo capire come lo facevi risuonare ai nostri microfoni. Volentieri. Che sono sufficienti, diciamo, non all'altezza di tuoi, perché tra l'altro una cosa che mi colpisce di Chiara è che gira con questo, si dice stetoscopio? No. In alcuni casi sì, è uno stetoscopio, esatto, che ho costruito unito a un microfono, esatto, cardioide che recupera dei... Insomma, c'è un certo punto anche delle una pistolina che tu punti, no? Che è un, no, sì, so, che è un boom, in alcuni casi nasconde una vera e propria pistola. Ci sono dei video suoi, poi sentiremo qualcosa fatto nelle città, che gira per le strade con questi microfoni, accarezza le cose, sembri una matta di fatto. Beh, sì, da sì, lontano. Sì, sì. Però... Non, in realtà lo sono, ecco, poi ho cercato di confondere la mia natura okay, con esatto, una professione, ma di base... Come faccio a nascondere una patologia? Dico che sto lavorando. Sto lavorando, lasciatemi stare. Come sempre ritorniamo a Salmetti che dice di fare l'attore. Ma ed certo, è sempre lui. Sto sempre lavorando. Allora, dicevamo, oggetti sì, esatto, che ci rappresentano. Io ho scelto i dadi che tengo sempre in tasca. Wow. Non so, i dadi non sono... chiedermi perché ho dei dadi in tasca, ma ce li ho. Uh-huh. E quindi io li farei suonare tipo così, banalmente. Come le maracas. Esatto. Già, è un inizio. Tu, quindi, Chiara? Posso tranquillamente sì, abbassare il microfono? Quello che, senza quello che vuoi, quello che senza vuoi, problemi. Beh, noi descriviamo quello che fai. Se avessimo, per esempio, una ciotola vuota, sì, una ciotola in metallo, un piatto, qualsiasi non cosa, potremmo farli roteare. Sì. In questo caso, nelle mie colonne sonore, ho sempre sì, bisogno di un ritmo. Quindi, senza impazzire troppo, possiamo far sì che questo suono, semplicemente in questo modo, mi dia un ritmo che poi può essere trasformato in un i famosi rullanti o hi-hat delle batterie. Certo, batterie. Quindi va semplicemente un pochino equalizzato. Sai cosa possiamo aggiungere? Mentre tu fai questo ritmo, tu potresti sì, aggiungere il tuo bellissimo naso, sì, che abbiamo scoperto un fare stupendo, un suono pazzesco. Aspetta, senti, allora andiamo a ritmo, proviamo con un dado e il naso. Facciamo così, io faccio la cassa col vai, basso. Ci okay, sto. Vado. Beh, ragazzi, no, cioè naso e dado. Io invece ho portato questo che cerco di far risuonare in questo modo ed è un libro, è un tomo pesantissimo. Un bel tomo. Cerchiamo di perdere altri 10 ascoltatori. Tu fai il ritmo, tu il naso e tu il libro. Aspetta. Allora, aspetta, io vado io con il libro. Sennò puoi anche. Attento, perché tu hai il kick drum più importante della storia. Cioè, in quel caso tu lo fai suonare. Kick drum. Non ho capito nulla. Assolutamente nulla. Allora, parte la. Puoi fare anche così, guarda. No, adesso spiego io a Chiara come possono i dadi. Vabbè, ragazzi, me ne vado, ciao. Esatto. No, allora partite voi con tu naso, sì, io dado. Naso. Allora raga, faccio solo un colpo di cassa, non vi mando in paranoia. Okay. O ne faccio due, ne faccio uno, dai. Beh ragazzi, cioè, secondo me qua abbiamo perso altri 50 ascoltatori. Qualcuno è svenuto. Esatto. E chi è rimasto? Grazie. Però è divertente come gioco, perché potete provare anche voi a casa. Sì. E tutto si può trasformare in ritmo. Ecco, esatto. Adesso il bambino lo Invece questa cosa come la faresti suonare? Cos'è questo? Che cos'è questo? Un blister di medicinali. Qua c'è tanta. Certo che poi puoi anche aprirlo, se vuoi. Si incastrano. Vediamo cosa c'è dentro. Possiamo fare un sacco di cose. Adesso esce. Adesso ragazzi, cioè, no. Sì. Ma scusa, no. Che pastiglie sono? Un pozzo di cose, metti che sto male, sono in giro, viaggio spesso. Abbiamo aspirine, perfetto, tachipirina. Beh, il blister. Aspetta, aspetta. Op. È uscito, ecco, devo prenderla. No, se è uscito ormai devo prenderla. È questa. Grazie, ma me la prendo. A proposito di medicine, Chiara, quali sono le tue ossessioni? Le ossessioni sono tante, nel senso che quando hai a che fare con l'audio e con il suono hai a che fare con la tridimensionalità della vita, perché ancora più che la vista è il suono che ti rende partecipe di un mondo, e molto spesso divento quasi insofferente a tutti i rumori della vita quotidiana, nonostante siano poi il mio strumento musicale. Quindi l'ossessione è sicuramente la cura delle mie orecchie e la cura di un ambiente sonoro. Quello è ormai diventata quasi. Ma te capita tipo mentre sei al ristorante che senti un discorso su un altro tavolo e ormai perdi il focus di quello che stanno dicendo i tuoi amici, ti giri e ascolti, oppure anche solo con l'orecchio ascolti in fianco? Sì, purtroppo sì, infatti volevo proprio arrivare distrattissima e come se avessi le orecchie in Dolby Surround, cioè sento 5 discorsi più uno, che è quello che sto seguendo direttamente. E il senso di tutti anche, tieni? Magari il senso no, perché se una persona parla ed ha una bella voce, quella voce già capisco come intonarla, cioè già capisco nelle sue parole che note sta facendo. Ma dai. Con una mia ex ragazza ho coniato un'espressione che è essere in rosso o in verde. Sei in rosso quando ascolti gli altri tavoli, sei in verde quando sei col tuo partner. Perfetto, rende proprio l'idea. Tipo campo fuori campo. Sì, va. No, sono in rosso. Tipo magari lei ti parla e tu fai no, sono in rosso, stanno i due qua vicino. Soffri di horror vacui? No, non in modo particolare. Soffro di tantissime altre cose, a volte di alcune psicosi generali. Delle volte devo ammetterlo, ho difficoltà a stare in mezzo a tante persone, sempre per quel discorso, perché tendo poi a distrarmi facilmente. Però tengo tutto sotto controllo. Sotto controllo. Cos'è che cerchi? Quando hai detto tendo a distrarmi, vuol dire che stai cercando qualcos'altro rispetto a quello che hai davanti in prima linea, diciamo? Ma più che cercare evasione, fuga o sai, in ogni suono che sento intorno a me, torno a ripetere, è come se dovessi armonizzarlo alla vita, no? La ricerca del suono e del rumore è una missione, cioè il rumore noi siamo abituati a pensarlo come qualcosa di brutto. La mia missione è quella di armonizzare il rumore per dare l'esperienza di qualcosa di positivo. Quindi in realtà forse non è una distrazione, ma è una partecipazione attiva. Non so come dire, forse chiaramente mi devo ancora risolvere sotto questo punto di vista. Allora, questa sei tu a dove esattamente? In che città? Questa sono io a New York. Esatto, e questo è il progetto The Sound of City. Esatto. Ci puoi spiegare che cos'è? Allora, riconnettendomi a quello che mi avete chiesto prima, quindi su cosa ti concentri, cosa cerchi. Un giorno mi sono interrogata, un giorno del 2013, mi sono interrogata su quale potesse essere lo strumento musicale della vita più grande, e guardandomi intorno, perlomeno ascoltando intorno, mi sono resa conto che le città erano il nostro strumento musicale principale, ed era uno strumento musicale che tendiamo a non ascoltare più, perché ormai lo diamo per scontato, siamo abituati a fotografare, a fare video nelle città, ma non le ascoltiamo mai. E quindi anche in questo caso è stata quasi una provocazione, una missione, quella di dare voce alle città solo attraverso il loro suono. Con delle regole precise, giusto? Regole precise, ovvero 48 ore in una città, il più possibile da sola. Ma non dormi? Teoricamente no, deve essere proprio la fatica anche di questa ricerca, perché la fatica ti abbassa l'attenzione e abbassandoti l'attenzione è quasi più spontaneo l'abbandono nella città, quindi assolutamente cellulare spento, no mappe, essendo guidata solo ed esclusivamente dal suono. Quindi ti perdi? Mi perdo. Con le cuffie in testa? Con le cuffie in testa e i vari microfoni. New York è stata una delle città che conoscevo, perché chiaramente c'ero stata diverse volte. È un po' come la città di Milano, dove vivo, è stato fondamentale quello di dimenticarsi i cliché che avevamo nelle orecchie e perdersi proprio nel suo spettro sonoro. Tra l'altro, mentre parlavi, invitavi le persone ad ascoltare le città. Spesso appunto le persone pensano essere in realtà un problema all'udito, la città, che fastidio, sì, sì. Questo inquinamento acustico. Però un'altra cosa che mi è venuta in mente è che prima di ascoltare bisogna anche fermarsi ad ascoltare. Assolutamente. E quindi la difficoltà oggi è dire: ok, spengo il telefono, non devo andare a quell'appuntamento di lavoro, mi devo fermare, mi siedo e sto qua. Esatto. Che però è una rivoluzione per chi ha una vita attiva. Nel 2020, sì, direi. Lo è. Se poi pensi al boom di vendite delle cuffie noise reduction, cioè alla cancellazione del rumore di tutto quello che sta intorno, in realtà sì, possiamo cancellare il rumore, ma se non ci fermiamo mai, alla fine il non fermarsi mai e riempire la nostra vita di cose da fare è anch'esso stesso un rumore. La società dell'isolamento. Che bello. Così. Ci ha regalato. Così, una perla. Potremmo fare una rivoluzione. C'è tipo una volta a settimana, 5 minuti, ti fermi nel posto dove sei. Sì. Anche se hai un appuntamento pesantissimo, ti fermi. Tranne tipo se blocchi la fila. No, se blocchi la fila in cassa, l'S lunga, magari, e non fai ascolti dopo che hai pagato. Tipo scendi dalla metro a Buonarroti, ti fermi e stai lì fermo. Perché per chi non è di Milano, Buonarroti è una fermata della metro rossa. Sarebbe lì 5 minuti. Voleva dire anche un'altra cosa. Buonarroti, però è un pittore, però. Così volevo. Allora, facciamo questo piccolo gioco. Se per settimana prossima tu dovessi fare un remix di due suoni che ti proponiamo adesso, sì, quale sceglieresti? Primo suono. Secondo suono. Cameriere senza granita, solo un po' di caffè. Dai, Beppe. Come? Ma Beppe. No, un remix di una canzone di Gigi D'Alessio. Ho capito, ma dai, abbiamo appena parlato di rumore. Ma cosa te? Ma sei tu che sei. Tu sei pregiudizievole. Sì, tu hai dei pregiudizi, guarda, a te l'onore di dire quale remixeresti. Via. Beh, ovviamente, sai, per poter fare una colonna sonora attraverso il rumore deve essere davvero ingombrante e deve darti davvero fastidio. E quindi Gigi D'Alessio. Gigi D'Alessio. Si scherza, Gigi, dai, ovviamente. L'ultima cosa, tu ovviamente con Sound of City cerchi di promuovere un lato della città nascosta e fare ascoltare alle persone qualcosa che non hanno sentito mai della città. Vorrei chiederti in ultima analisi, se tu dovessi giudicare l'Italia da questo spot, che immagine avresti? Please visit the website, but please visit Italy. We're the best country in the world in terms of culture, landscapes, art, history, cities, villages, beautiful. Beh, dai, beautiful la serie TV, sì, esatto. Però devo dire che Francescone nostro aveva il tempo, aveva il ritmo, c'era pausa. Esatto. Gliela stiamo ancora menando a Francescone dopo 20 anni. Ragazzi, dai, questo è un cult. Abbiamo visto l'occhio di Chiara, si è spento. Come ho sentito l'audio. Scusate. Beh, credo che si spegnerà a breve anche il microfono. Ragazzi, scusate, però a guardare quello che c'è oggi, aridateci a Rutelli. Esatto. Si stava meglio quando si stava peggio. Va bene. Allora, ringraziando Chiara per essere stata con noi. No, aspetta. Io voglio capire come faccio a risolvere il mio problema di acufeni. Che frequenza hanno? Io non riesco a dormire la notte. È una sessione aperta con il tuo medico da un'altra parte. Sì, facciamo uno spin-off. Aperta a parte e a pagamento anche. Perché Chiara mica viene qua. No, lo risolverai. Ne ho sofferto molto anch'io, ma sono riuscita a risolverlo. Ecco. Però la tutela delle orecchie. Ecco. Magari in radio stai con un orecchio sì, fuori, un orecchio no. Il mio progetto The Sound of City potrebbe aiutarti. Di conseguenza, a settembre. settembre, esatto, piace sempre, a, no? Settembre? A settembre, quando uscirà, ve lo porterò ufficialmente, sarete i primi ai quali lo farò ascoltare. Grazie. E quello ti guarirà decisamente. Grazie mille. Grazie. Ringraziamo Chiara per essere stata qui con noi. Cos'è, Beppe, questo? Cos'è, un morse? Si sono persi? Sto salutando gli ascoltatori col codice Morse. Va bene. Off Topic. Fuori dai luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella.